credo che in Italia ci sia una scarsa percezione di quanto la nostra cultura sia amata all'estero. Molto spesso mi chiedono qual è il segreto del successo che ho avuto in giro. Io credo che il segreto stia proprio nel fatto che ho cercato di essere italiano fino in fondo, senza andare a imitare o scimmiottare quello che oltreoceano sanno fare meglio di noi. Quindi ho cercato di portare all'estero la melodia, la musica, e farlo attraverso un dono che in realtà ho ricevuto dal cielo, che è la voce, e basta. E questo fatto è molto amato in America, ma non soltanto in America, perché devo dire che la musica italiana è amata in tutto il mondo, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda fino in Lettonia. Di questo noi dobbiamo essere molto orgogliosi, non dimenticando che l'opera è nata proprio in Italia ed è nata a Firenze alla fine del Cinquecento, quindi è musica nostra a tutti gli effetti.